parlando coi pensieri miei, io mi accorgo che esisti solo tu e girando la pagina in un libro di poesie ce n'è una che mi parla di te. Come sai, mia dolce primavera, dove sei? Mio unico pensiero, cosa fai da sola in d'amore.